vista. I mille aspetti dell'attualità. E proprio di attualità parleremo oggi, di come si forma e di come si smonta anche una notizia. Innanzitutto, buona giornata. Irene Zerbini al microfono. 13 minuti dopo le 8, vi ricordate Charlie Hebdo? E vi ricorderete anche dell'indignazione che aveva suscitato quanto accaduto, giustamente direte. Eppure tutti i cittadini, gli editorialisti, chi posta su Facebook, chi twittava, chi si stracciava le vesti, solo 3 mesi dopo erano scomparsi. Questa è una riflessione che abbiamo ripreso da Raphael Glucksmann, che è un parigino, quindi le osservava le piazze da lì, è un autore di documentari, è anche un intellettuale che chiama raccolta proprio gli altri e dice: attenzione, come mai l'11 gennaio del 2015 non solo la Francia ma l'Europa, il mondo, erano tutti Charlie e guardandosi intorno, semplicemente alla festa di commemorazione l'11 aprile 2015, cioè 3 mesi esatti dopo la più grande, se possiamo definirla così, manifestazione della storia francese, c'è stata una commemorazione in Place de la République a Parigi e a questa commemorazione 3 mesi dopo hanno preso parte appena 200 persone. E da qui parte proprio la nostra riflessione di oggi sull'indignazione che scade. Siamo pronti a riempire i Facebook, le pagine dei giornali, i siti internet di commenti roventi, siamo pronti a gridare la nostra rabbia, ma come mai non riusciamo a mantenere una convinzione a livello collettivo per più di 15 giorni consecutivi? Come lo si spiega? Siamo tutti diventati un po' superficiali, abbiamo un'attenzione a livello pubblico che non riesce a reggere il corso del tempo? Voi per cosa vi indignate? Per cosa vi arrabbiate? E quando lo fate, sentite l'esigenza di manifestare pubblicamente con un post, con un tweet, con un social di qualunque tipo, la vostra incazzatura, come ci segnala qualcuno, o semplicemente vi sentite quasi incapaci di dire o preferite riflettere? Diteci anche le vostre esperienze, perché vogliamo capire insieme cosa sta succedendo a questa indignazione a intermittenza e che valore ha, se veramente è qualcosa che connota i tempi di oggi e l'informazione di oggi. Come farlo? Come partecipare? Perché è un tema che affronteremo dopo le 9. Potete telefonare all'800 24 00 24. Abbiamo anche un indirizzo email, spuntidivista@radio24.it, e poi abbiamo un numero SMS 349 238 6666. Parleremo di fondi europei dalle 8:30, perché sono stati ideati per sostenere la crescita delle aree più deboli dell'Europa. E dopo il botta e risposta tra lo scrittore Saviano e il presidente del Consiglio Matteo Renzi sugli interventi necessari per il Sud, si è andati anche a scoprire questo dato molto importante del mancato utilizzo addirittura di 12 miliardi di euro messi a disposizione dall'Unione. Sono lì e inutilizzati, rischiano di andare perduti se non verranno spesi entro fine 2015. Ma perché non riusciamo a utilizzarli? E come si potrebbe fare per cambiare tendenza, per cambiare rotta, visto che il bisogno è grande e viene sottolineato tutti i giorni? Un tema che affronteremo dalle 8:30. Prima però noi ci spostiamo fuori dai confini italiani. Visti da fuori. Dovrei dire Moshi Moshi Tetsuro Akanega Kubo, buongiorno. Ah, buongiorno. E il corrispondente giapponese in Italia per Sakai Shimpo oggi è con noi, perché vorremmo chiedergli prima di tutto come si è ascritto di questa visita del Presidente del Consiglio italiano in Giappone. È una cosa per cui i caporedattori ti hanno fatto una telefonata in Italia, ti hanno chiesto qualche corrispondenza? No, perché poi ne ha parlato poco, giusto, anche il giornale oggi parla solo di un accordo per comportamento confronti della Russia, che il Giappone ha il problema delle isole contese, Italia ha problema quindi di esportazione eccetera. Più di questo il mio giornale non ha scritto, quindi poco. Non ha tolto il sonno, insomma, questa notizia, sì, ho capito. Sì, non abbiamo capito lo scopo di questa visita in Giappone. Quindi non sei stato sollecitato dal punto di vista dell'informazione. Chiaramente in passato di Renzi avevi scritto parecchie cose. Sui Renzi, quando è andato al potere, certamente io avevo scritto anche, forse ultima speranza dell'Italia, la riforma che dovrebbe fare. E poi io penso che sta facendo la riforma. Certamente l'Italia è un paese che ha pieno di freni, quindi lentamente. Ma ci è uscendo qualche cosa. Solo che i nostri colleghi italiani sono più criticano, non vedono mai la parte positiva delle cose. Quindi la vostra mancata attenzione al viaggio del Presidente del Consiglio italiano in Giappone non è un giudizio, ma semplicemente non è così rilevante dal punto di vista dell'economia nazionale, capisco. Sì, senti, Tezzuro, sì. È sempre molto interessante vedere questa doppia velocità che c'è, questo doppio registro rispetto a fatti e naturalmente anche a istituzioni italiane, tra noi che viviamo qui e abbiamo una cultura di un certo tipo e coloro che ormai si sono trasferiti in Italia da molti anni, ma che sono portatori di valore e cultura diversa. Tu da quanti anni vivi in Italia, Tezzuro? Ormai sono 40 anni, da 77 che sono corrispondente del giornale. Sei più italiano che giapponese, perché... Sì, in certo senso sì, in certo senso. Cioè, è diventato in mezzo tra giapponese e italiano. Mi piace stare o sia in Italia che in Giappone, io amo tutti e due i paesi, quindi... E in questi anni avrai notato anche un aumento dell'attenzione verso la cultura giapponese da parte, per esempio, dei giovanissimi italiani che amano i vostri fumetti, non solo i giovanissimi, il cinema. C'è questo paese modernissimo, il tuo, da cui provieni, e questa poeticità, questa poesia che arriva dalla tradizione, questi fantasmi anche giapponesi di cui sono popolati i vostri prodotti culturali e che parlano delle questioni fondamentali della vita. Sì, perché forse il Giappone, anche 2000 anni di storia, non ha avuto grossa influenza dalla parte del monoteismo. Per questo abbiamo mantenuto in fondo il shintoismo o buddismo, che sono alla fine tutti hanno le anime, no? Albero, secolari, montagna, eccetera. Quindi noi abbiamo un rapporto con la natura molto più, come si può dire, natura più, siamo amici, solo della natura, da un albero secolare ci dà qualche cosa, che ha un dialogo con la natura, mentre penso che il cristianesimo è stato creato per gli umani, mi sembra, no? Sì, sì, no, c'è un rapporto più paritario, tu dici, tra essere umano e natura, e quindi un rispetto maggiore di cui è permeata la vostra cultura. E sono molto interessanti i vostri fumetti anche per questi aspetti che fanno riflettere. Sì, anche i fantasmi giapponesi diventano amici dei umani, oppure anche gli umani che diventano amici, capiscono tra di loro. È molto diverso da quelli dei vostri fantasmi, vero? Molto diverso dai nostri fantasmi, senza dubbio. Ci sono addirittura dei fantasmi dei sopravvissuti di Hiroshima e Nagasaki, tra l'altro tra due giorni ci sarà l'anniversario. E la memoria è molto sentita in Giappone? Certamente sì, adesso cercano di mantenere, perché ormai chi ha vissuto direttamente, sono novantenne, quindi cercano di imparare da loro quello che dicono e di raccontare ai giovani, ai ragazzi. Questo stiamo facendo tutto l'anno, ma tutte le fedi. Questo sarà difficile che i giapponesi dimentichino questo. E poi anche nella guerra i giapponesi è ancora pacifista. Adesso con questo governo che vuole cambiare un po' il sistema della difesa, eccetera, eccetera, più di 60% sono contrari, quindi i giapponesi non dimenticano, cioè sono diventati completamente pacifisti. Sono diventati completamente pacifisti. Ma eravamo anche prima, perché i giapponesi sono pacifisti. Una delle polemiche che sì. imperversava negli anni precedenti, soprattutto alimentata dai coreani, era sui libri di storia giapponesi, sì. in cui si ricordava sì. che il Giappone, sì. per esempio, durante il secondo conflitto mondiale aveva perso 3.150.000, sì. aveva avuto sì. milioni di vittime, ma non si ricordava l'altro lato della medaglia. Sì, sì, sì. Infatti, purtroppo, questa è la caratteristica dei giapponesi, che i giapponesi dimenticano abbastanza facilmente queste cose qua. Allora, il Giappone ha invaso la Cina e alla fine anche Filippina, Indonesia, che sono state vittime quasi 10 milioni di persone, non americani o inglesi che combattuto, ma è il popolo che stava lassù. Ma i giapponesi, non dico grazie a questo, ma di Hiroshima o tutto il bombardamento che ha avuto dagli americani sui civili, è diventato, penso di essere vittima, ma anche vittima del militarismo di allora, ma non è diventato, non ha pensato che noi che abbiamo provocato questa guerra. Beh, sei molto critico, come giustamente dovrebbe essere una persona che osserva oggettivamente, immagino. Però questo è un aspetto, sì, sottolineato varie volte, cioè i giapponesi hanno raccontato la storia per anni in maniera unilaterale, almeno così veniva rinfacciato loro. I libri di storia che usano i giovani giapponesi oggi sono diversi. Sì, certamente, ma anche il testo parla della guerra, certamente della tragedia, ma sempre un po' parte della vittima, no? Perché i bambini bombardati, morti, eccetera, eccetera. Quindi questo, ma questo io penso anche agli italiani, perché gli italiani parlano di resistenza, ma prima del 43, quello che ha combinato gli italiani all'estero, con guerra. Certo, anche noi abbiamo adoperato lo stesso meccanismo di rimozione, sì, storica. Sì, infatti penso che anche gli italiani sono vittime, quindi ha fatto resistenza, ma prima di arrivare alla resistenza ne ha fatto in Etiopia, in Libia, in Grecia. No, no, anche noi abbiamo diffuso sempre questa retorica dell'italiano brava gente che è andato in giro quasi ad aiutare, quindi ti capiamo benissimo. Abbiamo dei punti di contatto anche su questo. Poi un altro punto di contatto tra la vita politica o pubblica dei giapponesi, tu qui hai attraversato, non voglio dire mezzo secolo, perché però sei da 40 anni qua, e l'Italia è stato, non so, dalla vicenda Mani Pulite, dagli anni 90, dagli scandali sulla corruzione, che correvano paralleli come i binari anche lì, tra Italia e Giappone. Qual è la differenza tra ciò che è rimasto del... Allora, il Giappone e la burocrazia è abbastanza forte, un po' come i francesi, erano rispettati. Quindi dopo che c'è stato scandalo anche in Giappone negli anni 90, cambiato anche il sistema elettorale, che somigliava, ancora adesso mantiene, ma questo Mattarella. Dopodiché non ci sono più scandali tangenti da parte dell'azienda, quasi non esiste. Il scandalo dei politici sono politici che compra, magari poco, ma compra i voti, queste cose qua. Quindi questo tipo anche per... Cioè sono stati instaurati dei meccanismi grazie al nuovo sistema elettorale che hanno svolto una funzione di prevenzione, cioè hanno funzionato sull'efficacia. Sì, a parte questo, il popolo giapponese è come diverso forse dagli italiani, che non dimentica, quindi se combina qualche cosa un parlamentare, prossima volta verrà sicuramente bocciato alla prossima elezione. Sì. Ma non solo quel parlamentare, ma anche il partito che appartiene, quindi il partito stesso che vuole fare dimettere questo parlamentare che ha combinato qualche cosa. Cioè appena si sente odore di scandalo è il partito che spinge sul parlamentare, sul politico in questo caso, perché si dimetta, altrimenti poi a pagare sarà tutto il partito. Sì, tempo di fa è finito un vice ministro ha usato o tessera ferroviaria del parlamentare per andare a giocare al golf, che doveva essere usato solo per questioni lavoro, istituzionali. Ha dovuto dimettersi perché non ha pagato il biglietto del treno. Era 100 euro. Quanto? No? 100 euro, un biglietto del treno. Biglietto del treno di 100 euro che percorso ha, cioè, pagato, abbastanza caro comunque, ha, insomma. Sì, no? Non ha pagato, ma ha usato tessera del parlamentare. Per e per questo ha dovuto dimettersi. Molto, molto interessante questa, questa differenza tra Italia e Giappone. Ora, tu hai scritto anche di questa bellezza dei paesini intorno a Roma, perché tu vivi nella capitale, e hai detto, se ci fossero in Giappone paesini di questa con queste suggestioni, con questa ricchezza artistica, diventerebbero dei musei nazionali. Sì, sì, certamente, perché l'ultimo è stato inaugurazione della mostra, non so se conosci Castel Basso in Abruzzo. Sì, di nome. Non so, 30 abitanti, ma veramente entrando là dentro è un sogno, tenuta bene, dei palazzi. Se fosse veramente in Giappone, questo diventerebbe monumento nazionale. E tu devi anche, nella tua qualità di corrispondente, indicare degli itinerari ai giapponesi che già in Italia sono venuti una volta, hanno già visto Roma, Firenze e Venezia, itinerari alternativi. Sì, infatti ultimamente ha anche scritto anche dei casseri romani con la porchetta, il pane e il genzano, tutte queste cose qua, che è molto bello, poi due passi da Roma. Ma non vengono pochi turisti giapponesi in quella parte. Poi io amo proprio Ercolano invece di Pompei, molto più bello Ercolano. Ah, tu indichi anche l'alternativa a Pompei? Sì, perché Pompei è troppo turistico, invece Ercolano è un posto bellissimo. E poi hai segnalato un'altra differenza tra Italia e Giappone, molto bella nelle tue corrispondenze, cioè il fatto che in Giappone i giornali soprattutto si vendano per abbonamento. Questo secondo te comporta delle differenze anche nelle scelte editoriali. Prova a spiegarcele, Tetsuro. Sì, allora, soprattutto quelli grossi, ma quasi tutti, Asahi e Yomiuri hanno 12 milioni di tiratura al giorno. 12 milioni di tiratura, un sogno in Italia. Sì. E questi vengono distribuiti mattina alle 6-7 a casa, sì, direttamente. In genere lavorano ragazzi, studenti, liceali, eccetera, eccetera. Per questo non occorre mettere un titolo, no, grosso, scritto, tutto il scandalo, cosa. Quindi potrebbe fare una cosa molto più, come si dice, calmo, spiegare veramente cosa stessa, notizia vera. Non dico che gli italiani non scrivono notizia falsa, ma in ogni caso non è necessario gigantire come i giornali italiani che devono vendere ogni giorno alla edicola. Ah, quindi meno sensazionalismo, perché si vende per abbonamento. Beh, questa è un'esperienza, una partecipazione al giornale, al quotidiano, che fa riflettere, così non ci avevamo mai pensato a questa differenza suscitata dalle modalità di vendita. Tetsuro, grazie mille per questa tua corrispondenza, naturalmente sempre un grandissimo piacere parlare con te di questi punti di contatto tra Italia e Giappone. Noi ti proponiamo questi Pizzicato 5, perché è un gruppo che va per la maggiore nel tuo paese. Vogliamo ascoltarlo con te prima di salutarci. Ciao! Ciao! E questo è un successo pop giapponese. Attenzione, it's a beautiful day, è il titolo in inglese, però giapponese doc, l'abbiamo proposto al nostro corrispondente. Visti da Fuori ritorna domani mattina, come sempre, alle 8:15. Spunti di vista, i mille aspetti dell'attualità. C'era una definizione tra i vostri SMS che mi piaceva moltissimo, sulle piazze virtuali, per cui praticamente impegnarsi su queste piazze non comporta nessun impegno, noi cerchiamo solo scandali, non sentiamo un minimo di responsabilità per questa indignazione a scadenza. La domanda è rivolta a tutti i giornalisti, a tutti noi giornalisti, questo ce lo scrive Federico, e la colpa è sempre dei giornalisti, ci scrive qualcun altro in un SMS, perché siete voi che ignorate le news. Eccola la definizione, sto scorrendo naturalmente gli SMS, i rivoluzionari da tastiera. Non è male, devo dire, con uno slogan che sintetizza bene il tema di cui ci occuperemo dalle 9. Innanzitutto, buona giornata ancora una volta. La definizione rivoluzionari da tastiera arriva da Ferrara, ce la invia Davide e ci dice che così abbiamo un'indignazione a scadenza. Ma per cosa ci indigniamo? Per cosa ci arrabbiamo? E perché le notizie sembrano sparire con la velocità con cui si indossano le magliette? C'è una vignetta bellissima di Spinoza che fa vedere tutte le t-shirt che un intellettuale oggi deve avere nel proprio cassetto. Je suis Charlie è una, riportiamo a casa i Marò, e ogni mattina si decide quale indossare, per quale indignarsi, e poi la memoria, quella vera, in realtà è molto corta. Siamo bravissimi a dare addosso a chi la pensa diversamente da noi con un click, con un post su Facebook, con un tweet, e poi a dimenticarcene, tant'è che quando ci sono iniziative che ci chiamano in causa anche qualche settimana dopo, a cui dovremmo partecipare davvero, la nostra indignazione sembra scemata. Come lo si spiega? 349-238-6666 e ancora 800, questo è il numero di telefono che vi sto dando, 24 00 24. 35 minuti dopo le 8 e noi cambiamo pagina. Fondi europei, tutto è iniziato, per cui abbiamo aperto questa pagina da un botta e risposta. È stato sollevato il problema del sud, il problema è al centro di una lettera che Saviano ha scritto al presidente del consiglio Renzi, al governo, dicendo attenzione perché l'associazione per lo sviluppo dell'industria nel mezzogiorno, cioè il rapporto Svimez, non abbiamo mai spiegato questo acronimo, Svimez è questa associazione per lo sviluppo dell'industria nel mezzogiorno, il 30 luglio diceva attenzione, la situazione in Sud Italia è drammatica, e tra l'altro questo rapporto aveva tinte ancora più fosche perché il problema del sud è destinato a diventare un problema permanente, mancano prospettive, c'è anche un problema anagrafico, tra l'altro per la prima volta il numero di nati è più basso rispetto a quello che mai si era registrato nella storia italiana, quindi ci sono anche queste problematiche legate a migrazioni interne, e la crescita non solo stenta a farsi vedere, ma non ci sarà. E a margine di questo ci si è accorti che quei fondi europei ideati proprio per sostenere la crescita nelle aree più deboli dell'Unione Europea, quindi anche il Sud Italia, non sono utilizzati del tutto. Addirittura in Italia ci sarebbero 12 miliardi che, se non utilizzati entro il 2015, andranno in qualche modo perduti. Perché? Ma perché non riusciamo a far sì che queste risorse diventino poi posti di lavoro, diventino situazioni, opere pubbliche, sviluppo, crescita, visto che il bisogno è così alto? E vogliamo discuterne, abbiamo provato a chiederlo a coloro che di questi aspetti si occupano e che già tante volte hanno indicato delle ricette, hanno indicato anche dei cliché che noi giornalisti utilizzeremmo quando parliamo di questo e che dipingono la realtà un po' forzata, un po', come ci diceva il nostro amico corrispondente giapponese, un po' più drammatica di quello che in realtà è. Gianfranco Viesti, professore di economia applicata all'Università di Bari, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi, grazie. E lei, professore, è soprattutto in questa veste, la disturbiamo, direttore dell'Istituto di Ricerca e di Sviluppo sul Mezzogiorno, cioè il CERPEM. Sì. E lei dice, facciamo dei distinguo, il problema c'è, ma più che un problema è una spia di un problema organico, cronico, che l'Italia ha. Cosa intende dire, professore? Intendo dire che nell'utilizzo di queste risorse ci sono certamente problemi e soprattutto c'è molto che si può migliorare, ma che non è un problema specifico di questa politica o di queste risorse. La circostanza mette in luce molti aspetti di un'Italia che non funziona, di politiche ordinarie italiane che non funzionano. Insomma, non è che non si fanno le ferrovie con i fondi europei, invece le altre si fanno. In Italia non si fanno le ferrovie bene in tempi veloci, indipendentemente da chi le finanzia. Professore, rimanga con noi, ora ci colleghiamo con qualcuno che ci ascolta dall'estero, quindi ha un po' urgenza di lasciare la linea, ma è in grado di raccontarci perché e quali paesi riescono invece a ottenere un rendimento maggiore da questi fondi. Professore Emanuele Felice, buongiorno, benvenuto. Pronto? Non solo doveva andarsene, ma l'abbiamo proprio perso nell'etere, il professor Felice. Dico bene? Dalla regia non mi hanno detto, mi fanno un segno di ciao, quindi continuiamo ad analizzare quello che è il problema italiano e ci sposteremo con Felice quando poi lo recupereremo per capire perché in Spagna invece si riescono a utilizzare questi fondi per ferrovie, per strade, per ristrutturare centri storici come Siviglia e noi invece abbiamo una difficoltà nell'utilizzo, nell'ottimizzazione. Queste risorse. Professor Viesti, quale sarebbe la strada da percorrere? Cioè, dov'è il problema? Ci sono più cose che si possono fare dal lato dei fondi europei e dal lato del funzionamento normale dell'Italia, per così dire. Dal lato dei fondi europei la cosa più importante è utilizzarli per meno obiettivi e su meno progetti. Siccome è difficile spenderli, una buona concentrazione aiuta, anche perché spesso, come diremo, sono utilizzati dalle amministrazioni regionali che sono non perfette, per così dire. E quindi, per usare un eufemismo, lei dice. Per usare un eufemismo, sì. Fare meno cose aiuta, concentrare su meno obiettivi aiuta. Questo dal lato dei fondi europei. Dal lato dell'Italia il problema principale è il ciclo delle opere pubbliche. Cioè queste risorse finanziano in maniera cospicua interventi infrastrutturali. Questi interventi infrastrutturali in Italia hanno dei tempi dall'ideazione alla progettazione, al bando, alla realizzazione, alla certificazione finale, lunghissimi e purtroppo in allungamento rispetto al passato. In allungamento addirittura? Sì. Questo ce lo certifica un'unità, un pezzo di pubblica amministrazione in Italia di grande qualità, che è questa unità di verifica degli investimenti pubblici. Fantastico. Persone che vanno a controllare esattamente queste cose e danno un sacco di suggerimenti su come migliorare. Cioè, non solo noi abbiamo questi 12 miliardi di euro messi a disposizione dell'Unione che giacciono praticamente, non dico inutilizzati, ma rischiano di andare perduti se non verranno spesi entro il 2015, ma addirittura in futuro, se continuiamo così, ne sperpereremo, perché di sperpero si tratta alla fine, visto che li restituiamo all'Unione Europea, in quantità anche maggiore. Ma perché gli altri paesi invece ci riescono? Non tutti, però ci sono degli esempi virtuosi. Emanuele Felice, l'abbiamo invocata prima, buongiorno, benvenuto in trasmissione. Buongiorno, grazie. Perché la Spagna, lei che è docente di storia economica a Barcellona, riesce a utilizzarli questi fondi per le strade, per le ferrovie, per i centri storici? Qual è la differenza? No, semplicemente perché è un'amministrazione pubblica normale. Normale? La Spagna non è un paese... è un paese molto meglio dell'Italia dal punto di vista della specializzazione industriale, dell'istruzione, però ha un'amministrazione pubblica con tempi ragionevoli, certo, ha una giustizia che funziona nei tempi medi dell'Unione Europea, mentre quelli dell'Italia sono doppi. C'è anche il problema di corruzione e quant'altro, però... la classe dirigente spagnola dagli anni 70 a poi si è dato un obiettivo di modernizzazione del paese e da questo punto di vista ha creato le strutture di uno Stato normale, moderno e funzionale. Tutto quello che da noi è iniziato ad andare male proprio dagli anni 70 in poi. In Spagna quindi non vengono distribuiti a pioggia e con lentezza questi fondi europei? No, in Spagna sono stati usati soprattutto per fare le grandi infrastrutture del paese. E dal punto di vista infrastrutturale la Spagna oggi messa assolutamente meglio dell'Italia. Addirittura c'è chi dice che un paese con troppe infrastrutture, però è un fatto che la Spagna ha agganciato la ripresa al 3% di crescita del PIL. È chiaro. Sopra la media europea. E noi sono stati fatti in maniera intelligente dal punto di vista turistico. Anche dal punto di vista turistico. Dove si trova lei, professor Felice? Scusi, mi sente, dove si trova? Si trova a Tokyo, e questo è un trade union con il nostro corrispondente che abbiamo intervistato prima, però non è un aiuto sulla linea telefonica, quindi torneremo ad approfondire con lei questo aspetto spagnolo. Purtroppo non riusciamo radiofonicamente a seguire oggi questa conversazione così importante, ma che dovremo continuare anche senza questa testimonianza. E dunque noi abbiamo anche una testimonianza di quello che l'Italia riesce a fare, mentre arrivano i vostri SMS sul problema in cui ci segnalate la velocità della mafia, che invece è organizzatissima anche dal punto di vista e della tecnologia, dello sfruttamento degli appalti e della conoscenza delle procedure, e questa lentezza elefantiaca che abbiamo in Italia nella burocrazia e signorotti politici che gestiscono. Non è il primo anno, infatti, che abbiamo questo problema, ci segnala un ascoltatore. Continuate a scriverci al 349 238 6666 e se avete voglia anche di partecipare invece con dei racconti che riguardano magari alcuni dei progetti che vi stavano più a cuore, fatelo pure al telefono all'800 24 00 24. Poi noi vi racconteremo una storia che ha dell'incredibile, che poteva accadere solo in Italia. Avremo con noi qualcuno che era stato incaricato proprio di coordinare, di vigilare su 2 miliardi di euro stanziati da Bruxelles, in Campania in questo caso, e ha dovuto gettare la spugna, ha dovuto ritirarsi dall'incarico perché non c'era alcuna collaborazione. Ma entreremo nei dettagli con lui, il generale dei carabinieri Maurizio Scoppa. Prima però il traffico. Spunti di vista. I mille aspetti dell'attualità. E riprendiamo a parlare delle perché non riusciamo nemmeno a sfruttare le risorse che ci mettono a disposizione. C'è chi dice non ci sono controlli, troppa burocrazia, lungaggini, e ancora gli ascoltatori al 349-238-6666 che sono impietosi e puntano il dito sulla politica che in Spagna sarebbe molto meno corrotta e porterebbe al potere nei posti che contano persone più capaci delle nostre. Questo SMS arriva da Genova e lo firma Stefano. Noi vogliamo raccontarvi una storia, abbiamo detto, e la storia è quella del generale dei carabinieri Maurizio Scoppa. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Innanzitutto grazie per il suo tempo. Sappiamo che quello che stiamo per raccontare ha dell'incredibile. Allora, cosa è successo e quando è successo? Quando ha avuto l'incarico lei di controllare che questi 2 miliardi di euro stanziati da Bruxelles, in questo caso per la regione Campania, venissero utilizzati e utilizzati bene? Dunque, a fine settembre del 2013 ho stipulato un contratto come consulente, con l'incarico di esperto in sicurezza e legalità per l'attuazione dei progetti finanziati con i fondi europei, con la regione Campania. E sei mesi dopo? E sei mesi dopo ho dovuto disdire il contratto unilateralmente perché controparte, la parte committente, non mi ha dato la possibilità di lavorare. Cioè, lei fisicamente al mattino, da quando ha avuto questo incarico, generale Scoppa, cosa faceva? Aveva un ufficio? Dove andava? Per i primi 3 mesi, quindi fino alla fine del 2013, sono stato ospitato nei locali di una fondazione che ha sede nella regione Campania, dove avevo la possibilità di sedermi, avere una scrivania a cui appoggiarmi per svolgere il lavoro virtuale. Dico virtuale perché in effetti in questi 3 mesi nessun documento è stato sottoposto alla mia attenzione. Quindi lei non ha trovato collaborazione negli altri funzionari regionali, quindi non le sottoponevano documenti, addirittura non aveva un computer. Non avevo assolutamente nulla. E quello che ho fatto l'ho fatto con i miei strumenti personali e con lavorando a casa o appoggiandomi nei locali di questa fondazione. Un incarico per il quale non ha ricevuto né richiesto, voluto nessun emolumento, tra l'altro informiamo anche su questo aspetto perché qualcuno ce lo chiede. Ora, queste persone che non collaboravano erano secondo lei solo persone pigre, incompetenti o la boicottavano? Sul piano delle supposizioni si può dire molto. Certamente c'era qualcosa in più della semplice pigrizia o inettitudine, c'era una evidente volontà di fare in modo che io non entrassi nel merito delle procedure. Ci scrive qualcuno: i nostri burocrati se ne fregano, tanto lo stipendio è sicuro e il posto lo mantengono. Questo è un SMS arrivato ora da Valerio al 349-238-6666. Lei dice c'era qualcosa di più della semplice pigrizia o mancanza di voglia di lavorare. Ma lei aveva previsto, aveva intuito a un certo punto che questi soldi, questi 2 miliardi, poi se le cose fossero continuate in questo modo non sarebbero stati spesi e dunque non sarebbero finiti alla collettività? Certamente era una previsione molto facile da fare. Per mutuare un'espressione di una vecchia canzone napoletana, non c'era bisogno della zingara per fare questa previsione. Era evidente che la lentezza, la flemmatizzazione dello sviluppo delle procedure avesse portato a un risultato catastrofico come questo. Ma la volontà politica da parte della Regione Campania di far sì che questi 2 miliardi in questo caso andassero a destinazione c'era? Sì, c'era, tant'è vero che è stata la volontà politica a volere che questo incarico fosse ricoperto e che venisse affidato a me. La volontà c'era, ma io concordo pienamente con quello che ha detto il professor Felice. Ci sarebbe bisogno di un'amministrazione pubblica normale, non buona o eccellente, normale. E purtroppo noi non l'abbiamo. Quindi lei ci sta dicendo che nonostante la volontà politica, la burocrazia, in questo caso i funzionari, l'apparato regionale, è più forte della politica? È perché l'amministrazione, l'apparato rimane permanente e come ha segnalato quell'ascoltatore, poi comunque vadano le cose, rimangono al loro posto, non sono abituati a rispondere delle loro azioni. Certo, non vengono misurati, lei dice. Non vengono misurati, non vengono in termini di risultati, quindi. Sì, anche immagino che prendano anche un premio di produzione, naturalmente distribuito a pioggia, e quindi la loro produttività è data per scontata. Buongiorno, ci spostiamo adesso sugli ascoltatori. 800 24 00 24 se avete qualcosa da dire. Raul, buongiorno. Buongiorno. Prego, esprima la sua opinione. Lei lavora nella burocrazia, forse? No, non lavoro. È un diretto interessato, ma è un cittadino. Come cittadino la tocco con mano. Ecco, io porto un esempio che anche dove la burocrazia, intesa come sistema, funziona, poi si scontra con regole che sono quelle, per esempio, dell'assegnazione degli appalti per delle opere pubbliche, dove si procede speditamente, Poi la regola è che per qualsiasi lavoro di una certa entità, tutte le aziende che hanno interesse, che non hanno vinto la gara, hanno diritto a far ricorso, quindi bloccare le opere, e questo diventa poi una forma anche di quasi di ricatto verso l'azienda che magari ha vinto regolarmente l'appalto, per vedersi poi assegnati magari una parte di lavori. Quindi diventa difficile anche spendere i soldi su opere dove la burocrazia funziona, i soldi ci sono, quindi diventa lentezza. È un sistema di assegnazione delle gare, degli appalti, dei lavori pubblici che andrebbe rivisto, dando anche ma la sua ricetta, siamo pratici. La mia ricetta sì. È dare la responsabilità a chi decide delle decisioni che assume, senza sempre un secondo grado, un terzo grado che può modificare e giudicare. Io so, anche nella politica ritengo che chi viene eletto dai cittadini ha il diritto e il dovere di fare delle scelte, poi ne pagherà le conseguenze in termini positivi o negativi, e mentre così non c'è nessuno che si assume la responsabilità in prima persona di decidere in un senso o nell'altro. Scarsa responsabilizzazione. Raul, grazie per questa strada che ha indicato. Bruno, buongiorno. Pronto? Pronto, buongiorno. Bruno, dica. Allora, i soldi nel meridione non si utilizzano prima di tutto perché metà della popolazione è semianalfabeta. Metà della popolazione poi, semianalfabeta. Non ci sono i soldi per la gente che vuole mettersi in un'attività, che vuole sviluppare un'attività, deve avere un minimo di patrimonio. Io non capisco proprio, scusi Bruno, ma cosa intende chi deve sviluppare un'attività e deve avere un minimo di patrimonio, la popolazione semianalfabeta? Cioè, adesso con tutta per carità, la possibilità di leggere il reale un po' come vogliamo, atteniamoci ai fatti. Pronto? Sì, Bruno. Mi scusi, sì. Uno che non ha i soldi per comprare il biglietto per mettersi un viaggio. Sì. Come fa a salire sul treno che viene multato? Grazie Bruno, grazie per aver sollevato questo interrogativo, poi ci penseremo e cerchiamo di essere un po'... come dire, pertinenti, perché stiamo parlando di fondi europei. Gianfranco Viesti ha sentito l'indicazione anche del primo ascoltatore sulle lungaggini e la possibilità di diversi ricorsi che poi anche nell'amministrazione pubblica a volte fanno sì che l'opera anche già approvata abbia dei tempi di realizzazione eterni, troppo lunghi. Si potrebbe intervenire in questo senso? Sono perfettamente d'accordo e credo che abbiamo trovato un punto fondamentale. Come dicevamo prima, il problema non è tanto da dove arrivano i soldi, quindi fondi europei piuttosto che fondi nazionali. Il problema è che in Italia, ahimè in tutta Italia, nelle regioni migliori e nelle regioni peggiori, i tempi di realizzazione delle opere sono molto lunghi e ci dice questa unità di valutazione degli investimenti stanno peggiorando rispetto al passato. Il conto che si può fare facilmente è questo: un'opera da più di 100 milioni di euro, quindi un'opera molto importante, dal momento in cui viene avviata con l'inizio della progettazione, al momento in cui viene collaudata, certificata, consegnata, diciamo così, si finisce di spendere tutti i soldi, ci vogliono quasi 20 anni. Sono tempi allora, inaccettabili, naturalmente. I fondi europei sono spia perché, essendo gli unici fondi che hanno un contatore del tempo, hanno delle scadenze. Mi scusi se la interrompo, professore, prego. Ma devo rimandare questa sua riflessione a subito dopo il GR, perché ci interessa moltissimo parlare con numeri, che sono gli elementi del discorso più importanti in questa trasmissione. Noi però diamo la linea al GR, all'attualità, e ritorniamo subito dopo. Il segnale orario vi è offerto da Gran Moravia e Burro delle Alpi di Brazzale. Fidati di chi conosci da 200 anni. Spunti di vista. I mille aspetti dell'attualità. Parleremo di scadenze oggi, declinate in diversi modi. Ancora buongiorno da Irene Zerbini, perché a scadenza anche la nostra indignazione, proprio così. In quest'epoca di grande accesso ai media, di grande condivisione del pensiero collettivo, sembra che il pensiero collettivo che indigna in realtà duri poco, si accende e si spegne. Ci sono questi rivoluzionari del computer, come li ha definiti un nostro ascoltatore, che si arrabbiano per una notizia, sono disposti a insultare il nemico o chi la pensa diversamente per qualche giorno, qualche ora, e poi si dimenticano completamente dell'esistenza anche della stessa. Perché? Perché agiamo così? E che differenza c'è tra l'indignazione, quella che ha anche un valore morale in qualche modo profondo, che spinge alla mobilitazione, al cambiamento, e questa nostra indignazione facile? Utilizziamo la prima persona plurale perché nessuno ne è indenne. Questo è il tema che affronteremo tra pochissimo insieme a voi all'800 24 00 24. Vogliamo sentire come cambia il costume in questo senso. Prima però stiamo affrontando un altro problema decisamente importante, e riguarda l'utilizzo dei fondi europei, perché è uno dei paradossi del nostro paese. Cioè, siamo alla ricerca disperata di risorse da poter investire in infrastrutture, di risorse per rilanciare l'occupazione, però contemporaneamente non siamo in grado di utilizzare quelle che l'Europa mette a disposizione come contributo alla crescita. Da qui a fine anno, e da qui siamo partiti, dovranno essere spesi 12 miliardi, altrimenti andranno persi. E con i nostri ospiti stiamo cercando di capire dove sia il problema. La lungaggine della burocrazia e della realizzazione a causa dei diversi passaggi delle opere pubbliche è uno degli imputati principali di questo processo. Voglio leggervi alcune delle suggestioni dei nostri ascoltatori, perché ci state scrivendo. È Clotilde che ci dice con un SMS: perché hanno introdotto la responsabilità civile per i magistrati e non per i politici e per gli alti burocrati? Perché se dovessero pagare di tasca loro, penso si assumerebbero maggiore responsabilità. 349 238 6666. Da Genova arriva un SMS di Roberto a questo numero, e più o meno siamo sullo stesso tono. Il problema Italia è che sia a livello pubblico che a livello politico non paga mai nessuno. Tanti segnalano lo spreco dei soldi e ci chiedono anche che fine hanno fatto i 2 miliardi non utilizzati dalla regione Campania, visto che abbiamo parlato col generale Maurizio Scoppa. E chiaramente i soldi che non vengono utilizzati poi vanno restituiti, perché hanno delle scadenze, ci stava dicendo il professor Viesti. È ancora con noi, professore? No, certamente. E quindi c'è una scadenza in questi fondi, e il fatto che ci sia una scadenza mette in luce quanto lenti siamo sostanzialmente. Certo, sono molto utili perché sono gli unici che appunto hanno questo contatore del tempo, 7 anni per un ciclo, e poi entro 2 anni la finire la certificazione della spesa, cioè mettere a posto tutte le altre carte. Le altre politiche pubbliche italiane non ce l'hanno, e abbiamo numeri più vaghi sulla loro velocità di attuazione. Il timore è che anche le altre politiche pubbliche italiane siano altrettanto lente, se non più lente. Prima le davo i dati sulla realizzazione di infrastrutture, sì. Quelle dipendono da qualsiasi fonte utilizzata, sono i nostri tempi, d'altra parte lo vediamo. Quindi abbiamo un bel indizio, abbiamo trovato 2 indizi, la lentezza della burocrazia e la qualità della burocrazia nazionale e regionale, perché anche i tempi dei programmi nazionali sono molto lenti. Abbiamo trovato il secondo indizio, che è questo della realizzazione delle opere pubbliche. Adesso abbiamo anche un terzo indizio, cioè noi abbiamo il patto di stabilità interno che limita le erogazioni da parte delle regioni e degli enti locali anno per anno. La Banca d'Italia ci suggerisce che anche questo indizio va seguito, cioè alcuni interventi sono pronti, non possono essere materialmente fatti perché comuni soprattutto, ma anche le altre amministrazioni sul territorio, devono rispettare i loro massimali di spesa. Anche questo è un paradosso, una mano ci dice intervenite giustamente, soprattutto perché c'è la crisi, con queste politiche. L'altra mano ci dice attenti perché c'è l'austerità e quindi dobbiamo limitare quello che facciamo. Questo è stato molto rilevante soprattutto dal 2011 in poi e purtroppo ha contribuito a questa lentezza, che è un tema di cui indignarsi, come diceva lei, ma con intelligenza, cercando di capire che quali strade si potrebbero percorrere. Lei dice, per esempio, una potrebbe essere che le opere già individuate, le scelte già come dire decise, potrebbero essere attuate con l'utilizzo di questi fondi europei e che venissero però e non contabilizzati all'interno del patto di stabilità, non, cioè non si può indicare una strada di questo tipo? Così che non si mettano stilacci e lacciuoli. Sì. Dunque, qui c'è un problema lessicale di patto di stabilità, perché ne abbiamo uno interno uno europeo. I governi italiani, a partire dal governo Monti, hanno chiesto all'Europa di togliere questi interventi di investimento dai vincoli del patto di stabilità europeo, che sarebbe una cosa molto intelligente, nel senso che benissimo tenere i conti pubblici in ordine, ma qui parliamo di investimenti per la crescita e per la crescita, che non si contabilizzano anno per anno, no? Non è che quando uno costruisce una ferrovia deve mettere tutto il costo dell'anno di costruzione, quella dura 100 anni, siamo attivi. La risposta dell'Unione? Picche. Purtroppo rimanga picche. Con noi, professore, che vogliamo sentire anche altri suggerimenti ai nostri ascoltatori, perché Moreno aspetta in linea da molto tempo. Pronto, buongiorno. Dica, Moreno. Niente, secondo me l'opportunità era quella appunto di questa nuova legge sulla pubblica amministrazione, di equiparare tutta la funzione dei dirigenti, di tutti i dipendenti pubblici, a quelle che sono le responsabilità di un'azienda privata. E invece mi sembra che così come sta uscendo sia estremamente anacquata, quindi perdiamo una grande opportunità. E il nodo da sciogliere anche sui fondi europei, secondo lei la ricetta sarebbe maggiore responsabilizzazione? La ricetta è quella di dare responsabilità e di far pagare il conto poi a chi non ha fatto bene il suo lavoro, perché nell'azienda privata funziona così. Non è possibile sottrarsi a delle responsabilità. Il timing sui progetti europei è una cosa importantissima, la dovremmo copiare in Italia su tutti i progetti. E dovremmo mettere le scadenze su tutto. Quindi mettere scadenze precise, funzioni di responsabilità e sanzioni finali. E chi non consegna entro la scadenza ha anche la sanzione. Deve pagare il conto, sia il Moreno, lei ha delle idee molto chiare. Vediamo cosa ne pensa anche il nostro professore. Grazie per questa sorta di ricetta. Sentito, Viesti, si insiste molto su questo tema. Come no? Qui stiamo arrivando a un'interessante scoperta, cioè che questi tanto bistrattati fondi europei sono anche un buon esempio. Certamente tempi e cronoprogrammi degli interventi che poi devono essere verificati. Meglio sapere che si è in ritardo, e in modo che ci diamo da fare per capire e per migliorare, che non sapere niente. Secondo elemento, sempre in questi bistrattati fondi europei c'è stata sempre in Italia una parte di premio per le amministrazioni che arrivavano a dei risultati certificati, e cioè si tende a dare più risorse a chi arriva a dei risultati che sono fissati all'inizio e che devono essere conseguiti. Anche questo è un buon sistema di miglioramento dell'intervento pubblico. Tu vali e me lo dimostri con dei risultati, con dei numeri sui quali ci siamo accordati all'inizio, e quindi ti consento di fare di più. Tu sei più indietro e a quel punto non ti do il premio. Prima di salutarci, vogliamo ricordare anche, abbiamo parlato di ciò che non viene fatto, ciò che non viene utilizzato e il possibile sperpero in questo senso. Parliamo anche di quello che invece grazie ai fondi europei si è fatto. Alcuni risultati anche nelle infrastrutture sono stati conseguiti in questi anni? Certamente. Noi parliamo tanto di criticità e facciamo bene. Il caso che lei ci ha portato del generale Scoppa è un caso molto interessante e negativo, però non facciamo di tutt'erba un fascio. Allora, innanzitutto questi fondi non sono perduti, nel senso che in questo ciclo c'è ancora un problema di portare le certificazioni di spesa. Quei 12 miliardi sono in grande misura in attuazione. Quando noi diciamo sono stati spesi è perché abbiamo messo a posto tutte le carte che ci certificano che il processo è andato bene. Quindi piano a parlare di sprechi, piano a parlare di soldi perduti, parliamo di problemi ma anche di risultati. al centro-nord, dove con queste risorse si sono fatti tanti interventi per le imprese, tanti interventi alla formazione, al sud, dove con questi soldi si sono fatti gli aeroporti, si è fatto un intervento fantastico. Li citiamo quali aeroporti? Bari, così Catania, Cagliari, nei due ultimi cicli di programmazione abbiamo avuto dei risultati fantastici, e il boom del turismo nel mezzogiorno è legato al fatto che si può arrivare in aeroporti che funzionano benissimo, che sono moderni, come questi di queste città del sud. La metropolitana di Napoli. La metropolitana di Napoli è un intervento straordinario, dobbiamo farla funzionare meglio, ma intanto abbiamo una grande capitale che dispone di una rete di trasporto eccezionale. Interventi sull'ambiente, interventi nelle scuole, che sono stati fatti molto importanti. Probabilmente, come dicevamo prima, troppe cose. Indigniamoci, protestiamo, critichiamo, magari proviamo a suggerire, come abbiamo fatto in questa trasmissione, delle possibili soluzioni, ma non buttiamo mai il bambino con l'acqua sporca. Grazie. Cerchiamo sempre di distinguere. Grazie per questa conclusione al professor Gianfranco Viesti. Voglio chiedere un'ultima cosa anche al generale Scoppa, che è stato con noi. Quanto le è costato in termini personali retrocedere da quell'incarico? Molto, perché è la prima volta nelle mie lunghe esperienze professionali che rinunzio a un'impresa, ma non ho avuto la possibilità di portarla avanti, e questo mi rammarica molto. Ma cosa ha fatto dopo? Ha denunciato questa situazione? Ma io ho segnalato quello che avveniva alle autorità preposte al controllo. Ed è successo qualcosa? Qualcuno ha pagato in termini di responsabilità per non aver cooperato? No, che io sappia non è successo assolutamente nulla. Molto indicativo, grazie a Maurizio Scoppa, generale dei Carabinieri. L'abbiamo sentito, era stato chiamato a vigilare su oltre 2 miliardi di euro, erano stati stanziati da Bruxelles, dove in Campania, e dopo 6 mesi ha dovuto gettare la spugna per la scarsa collaborazione, non aveva ricevuto nemmeno un computer, nemmeno la cancelleria con cui operare. Grazie anche al nostro ospite, professore di economia applicata all'Università di Bari, l'abbiamo sentito nelle sue analisi molto puntuali, Gianfranco Viesti. Ora lui ha concluso il suo intervento dicendo di indignarsi, e dunque indigniamoci. Il grande no della Grecia al referendum popolare boccia col scaffali vuoti al supermercato. Immagini diffuse in tutto il mondo. Ha un volto e un nome l'assassino di Yara Gambirasio, la ragazzina di 13 anni e mezzo rapita con un furgoncino bianco e poi uccisa. È rientrato l'allarme Ebola in Svezia. L'uomo ricoverato per accertamenti non ha contratto il virus. Sono convinti che sia stata lei a uccidere il figlio di 8 anni, Loris. L'attesa della Grecia tra paura e incertezze in queste ore. Si soffre perché le banche chiuse dicono poca moneta e poi pochi rifornimenti alle farmacie. Stamattina in piazza Sintagma le stesse scene, le code per il bancomat e poi le proteste. Avete riconosciute? Sono le notizie per cui noi cittadini italiani ci siamo tanto indignati, al punto che abbiamo riempito di post Facebook, abbiamo riempito Twitter e tutti i commenti che si lasciano a margine degli articoli di giornale sui siti dei mezzi di informazione, e poi abbiamo spostato l'attenzione da un'altra parte, come sempre abbiamo cambiato canale, come siamo bravissimi a fare. Oggi parliamo di questo, parliamo di questa indignazione che sembra farci strappare le vesti, sembra farci indossare una maglietta dove diciamo Je suis Charlie o quant'altro, e poi subito dopo non rimane molto, non rimane nulla. Alcuni hanno segnalato, siamo dei rivoluzionari da computer, o semplicemente abbiamo perso un po' lo spessore, il senso di quella che è l'indignazione vera. Da quando abbiamo lanciato questo tema, da questa mattina, molti ci hanno segnalato la responsabilità di noi giornalisti. Siamo soprattutto noi che nei media, se lo vogliamo dire all'inglese, lanciamo questi titoli sensazionalistici per poi raccogliere delle reazioni immediate e girarsi dall'altra parte. È vero, lo chiediamo al direttore di uno dei TG più diffusi a livello nazionale, è con noi infatti oggi, e poi lo siamo abituati a seguire il suo prodotto un po' diverso, Marcello Masi, direttore del TG2, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a te e a tutti i nostri radioascoltatori di questa mattina. Senti, direttore, hai sentito? È colpa nostra poi se succede questo. Tra poco noi avremo anche una filosofa, abbiamo degli psicoterapeuti, ma è colpa soprattutto di noi giornalisti, è così? Guarda, ma sì, ma è anche colpa nostra. Io sono... Ho una scuola antica, io mi ricordo dagli studi classici che la responsabilità è una responsabilità che va come dire, distribuita tra tutti. Noi abbiamo diciamo un avamposto che è quello di dare le notizie e di informare le persone, quindi sicuramente abbiamo una grande responsabilità, però la responsabilità è di tutti. Io rifletto spesso sul tema dei social network, di questa globalizzazione dell'informazione. Ho letto da qualche parte che ogni giorno siamo bombardati nel mondo da 2 miliardi di file che contengono informazione. È come se fossimo, come se la mattina invece di trovarci davanti al lavandino usassimo le cascate del Niagara per sciacquarci la faccia, ed è come dire il flusso informativo che arriva. E allora cosa dobbiamo fare? Secondo me è quello che nel mio piccolo tento di fare, è quello di come dire, assumersi delle responsabilità precise. Io faccio sempre un esempio perché forse è quello più caro, l'Aquila. Io sull'Aquila come telegiornale ho fatto 125 servizi e non l'ho fatti durante il terremoto, l'ho fatti in questi anni quando tutti gli altri riflettori si erano spenti. Non posso farlo su tutto perché è chiaro, il telegiornale ha una durata, come tu sai, di 30 minuti, ho 4 edizioni, di cui 2 principali e 2 minori, e non si può fare su tutto, ma su alcuni temi se bisogna tentare, come dici te, di mantenere l'indignazione ad un livello che possa scatenare le reazioni anche di chi può agire veramente, parlo della politica, della burocrazia, bisogna assumersi anche la responsabilità di scegliere. Questo credo che oggi sia un tema importante. Senti, noi ti abbiamo chiamato te tra tutti i direttori perché abbiamo visto una scelta editoriale precisa al TG2, quello delle 20:30, almeno quello che vedo io. Sì. Quella dell'approfondimento piace tantissimo ai ragazzi, piace agli adolescenti, infatti i giovani molto disaffezionati alla RAI, te lo dico, naturalmente non ha nessun valore statistico il mio commento, però spesso i ragazzi non guardano la televisione in generale e invece accendono tanti alle 8:30 perché hai un TG in cui si susseguono le notizie diciamo da prima pagina nella prima parte, poi c'è questo approfondimento che porta sempre alla luce dei temi che non si trovano sui quotidiani quel giorno. A proposito, ieri abbiamo visto, hai mandato qualcuno in giro a comprare l'Ecstasy. Sì, ieri è stato... Non sei andato tu, direttore, no? A cercare fare l'inchiesta? No, no, no, a me, come si dice a Roma, mi sgamano subito. Come se fossi l'età. Andata io, cioè, sarebbe stata un po' dura, insomma. Ho mandato uno dei miei giornalisti migliori, lo stesso che ha fatto l'inchiesta sulle città e i disabili con la carrozzina, l'ho messo per 3 città in carrozzina a girare e a vedere quanto è difficile vivere per chi ha una disabilità. Lo stesso è andato ieri, l'altro ieri, nei 2 giorni, appunto, davanti ieri, in giro per Roma. E questo, quello che ho visto in onda, devo dire, mi ha sconvolto al di là di quello che avevo visto anche nella lettura del pezzo, perché la facilità con la quale si possa acquistare qualunque tipo di droga in una città come Roma davvero fa cadere le braccia. Ecco, ieri mi sono veramente indignato, anche perché ho una figlia di 21 anni e mi rendo conto che c'è una tale facilità, c'è una tale assenza di occhi intorno ai luoghi che sappiamo benissimo quali sono, dove avvengono le cose più terribili, che devo dire la verità mi ha veramente molto molto fatto indignare e sono molto arrabbiato, e su questo continueremo perché... E continuerai, quindi una arrabbiatura sul lungo termine la tua. Però volevamo capire, Marcello Masi, non per fare pubblicità al TG2, ma volevamo capire un'altra cosa da te. Questa scelta che noi osserviamo da ascoltatori, ma paga in termini di ascolti? Sì, allora io ti questo devo voglio dire sapere. Che sono tra le poche cose dei quali sono davvero orgoglioso. Ho scritto nel mio piano editoriale 4 anni fa, avevo avuto una piccola intuizione, arrivando per ultimi alle 20:30, in una giornata colma di notiziari, mi sono chiesto cosa posso dare io in più. E siccome da telespettatore devo dire che anch'io sono stufo di leggere sull'iPad, sull'iPhone, sul smartphone le notizie, vederle nei telegiornali, arrivando per ultimo mi sono chiesto cosa potevo fare. Allora ho provato a immaginare un settimanale quotidiano, qualcosa che potesse anticipare i temi, li potesse approfondire e, come dici te, potesse anche creare quel tipo di attenzione che ormai sta calando in tutte le altre forme di informazione. È una scelta che all'inizio non solo non ha pagato, ma mi ha messo in grave difficoltà anche con la redazione. Con chi? Con la redazione? Anche con la redazione, certo, ma sai, non è facile introdurre una novità del genere e fare pezzi, per esempio, anche di 7 minuti. Sai, non sono cose. Sì, che sì, sull'arte poi, su cose. In televisione, belle. Poi, sai, scrivere 4 cartelle si possono fare velocemente, montare 7 minuti è come un piccolo dossier. E quindi ho avuto all'inizio qualche resistenza. Poi, invece, devo dire che ora la redazione non solo è contenta, ma addirittura ho una richiesta di approfondimenti, di stimoli. Ma dimmi del idee. Pubblico. Il pubblico adesso risponde alla grande, adesso io ho la seconda parte che fa più della prima. Cioè sono arrivato nel mese da giugno in poi, anzi no, da maggio in poi, io la seconda parte faccio 300-400.000 persone in più della seconda parte. Questo è molto, molto interessante. È interessante e devo dire, per me davvero è un dato che mi rende felice, perché è una scommessa, se non è vinta, e dall'idea anche della maturità di chi sta dall'altra parte. Non è vero, come diciamo noi, che il pubblico gira in base alle uge e a chi sta che il pubblico. Gira se gli interessa gli argomenti e se gli interessa come vengono trattati, su questo non ho dubbi. E nella prima parte della mattinata abbiamo avuto un corrispondente giapponese che ci ha raccontato i punti di contatto con l'Italia e ci diceva sui giornali, quelli diffusi anche a 12 milioni di tiratura, perché questi sono le cifre in Giappone, che il fatto, e su questo non avevamo mai svolto una riflessione, che quei giornali vengano venduti per abbonamento solleva i direttori di quei quotidiani in Giappone dal titolo sensazionalista, dalla ricerca di come dire, di scandalo a tutti i costi, e su questo non avevamo pensato. Poi quando insomma ha lanciato questo tipo di osservazione, perché non è una provocazione, è un dato di fatto, ce lo raccontava, semplicemente ce lo riportava, abbiamo avuto anche reazioni da parte dei nostri ascoltatori che ci dicevano: ah, ma il pubblico cerca sempre lo scandalo, cerca sempre il sangue. Ci interessava sentire questo telegiornale nazionale, dove abbiamo visto tu eviti un po' così la cronaca più becera, comunque quando la riporti non stai lì alle 20:30 quasi mai, devo dire la verità, quasi mai. Ripeto, è una scelta che è dettata da una riflessione anche all'inizio, che era una riflessione strategica legata. Comunque ci interessava quello, sapere che il pubblico ti ha seguito. Assolutamente, non solo ha sentito, ma il pubblico a questo punto chiede soprattutto l'approfondimento, perché il resto della giornata, poi tu non so se hai notato, nell'ultimo momento ho fatto anche un riassunto di un minuto alla fine del telegiornale, sì. Questo proprio per dare a chi si è magari collegato tardi di capire, di sapere le notizie del giorno. Però il pubblico oggi chiede un prodotto che lo aiuti soprattutto a capire la realtà che lo circonda, perché la realtà ormai viene raccontata in maniera, come dire, così varia, così puntuale, da 1000 mezzi, che le notizie vengono, si fanno, sì, sono quelle. Grazie. Però difficilmente qualcuno poi si prende anche, come dire, il lavoro sporco, quello di andare a vedere un po' dietro la porta, quello di andare un po' ad approfondire, di scavare, di raccontare magari anche direttamente, come abbiamo fatto ieri, le cose, perché molte volte ci siamo seduti, soprattutto poi nei telegiornali, sulle agenzie, su quello che riportavano magari gli altri giornali. Ecco, io questo lavoro non lo voglio fare. Io ai miei ho detto: consumate le suole delle scarpe, lo so che siamo nel 2015, che probabilmente tra un po' andremo anche con qualche jet pedonale, però al momento vorrei che consumassimo le suole delle scarpe. E si nomineranno anche i nuovi vertici Rai. Ora voglio farti un'ultima domanda, direttore, prima di lasciarti. E il canone Rai è una delle imposte più evase, no? Dal punto di vista dell'evasione fiscale, gli italiani proprio sul canone Rai non hanno manco il senso di colpa, quasi. Secondo te quale potrebbe essere la ricetta per cui, proprio come moral suasion, gli italiani si sentissero spinti a tornare a pagarla, quella tassa lì? Dare ai telespettatori le cose che non danno gli altri, cioè andare a dare al servizio pubblico delle mission, come dicono quelli bravi, degli obiettivi, che siano obiettivi di interesse pubblico, ma siano anche obiettivi che sono difficili da trattare, sono magari quelli più spinosi, sono quelli meno appunto da copertina, che però agli italiani interessano. Io credo che se noi riuscissimo a riportare la RAI ad avere il coraggio, di avere anche l'orgoglio di raccontare quello che gli altri o non sanno o non vogliono, non dovreste fare tutti quegli appelli che fate nei TG, pagate il canone, perché avverrebbe da sé. Grazie mille al direttore del TG2 Marcello Masi, buon lavoro. Grazie davvero voi, mi avete dato una grande soddisfazione oggi, quindi vi ringrazio. Grazie, grazie naturalmente. Ciao. E buona giornata. Era molto indicativo questo telegiornale che ha scelto di dar la parola anche allo psicologo, al neurologo in prima serata su problematiche interiori e capire, e quello ci interessava sapere, se gli ascoltatori, gli ascolti poi pagano quando prendi quella strada lì, e lui ce l'ha raccontato. Noi torniamo invece tra poco a parlare di questa indignazione a orologeria, quella che dura poco, per capire da cosa è dettata, cosa dentro di noi ci spinge a insultare, a mettere un post rabbioso e poi a dimenticarci di quello che abbiamo scritto tre giorni dopo. Spunti di vista, i mille aspetti dell'attualità. Ancora buongiorno da Irene Zerbini, vogliamo sentire le vostre voci all'800 24 00 24. Adesso c'è anche chi ci scrive che da quando il direttore del TG2 ha introdotto l'approfondimento lui ha smesso di seguire il TG2, e questo è Matteo, e rientra un po' sulle forse è semplicemente una scelta questa di mandare questo sms così di informazione, ma se no sembra proprio quella volontà di contraddizione, quella volontà di umiliare la tesi che è appena stata espressa, che sembra muovere un po' questi rivoluzionari da computer, questi messaggi cattivissimi che si mettono, si postano sui social e poi alla fine si dimenticano. Ricordate l'11 gennaio del 2015, questo ce lo ricorda Rafael Glucksmann in un articolo che si intitola proprio Lo zapping degli intellettuali su Il, ed era il giorno in cui la Francia, l'Europa, il mondo, tutti erano con Charlie, editorialisti, e tutti promettevano nelle piazze, su Facebook, su Twitter, di resistere ai terroristi che avrebbero difeso in ogni luogo il diritto alla blasfemia, quindi si facevano un po' eredi dell'illuminismo. Ebbene, tre mesi dopo esatti c'è la più grande manifestazione, in gennaio c'era stata la più grande manifestazione alla storia francese, c'è poi un'altra manifestazione a distanza di tre mesi, questa commemorazione in Place de la République a Parigi. E sapete quanti vi hanno preso parte? 200 persone. E dunque anche lì, anche questa piazza l'abbiamo abbandonata. Ci indigniamo, ma per poco. Cosa è dovuto questa diminuzione dell'interesse, questo scadere? Mara, buongiorno, benvenuta in trasmissione, pronto? Buongiorno a lei, buongiorno. Da che città chiama? Da che città chiama? Da Modena, provincia di Modena. Sì, dica. Niente, il mio pensiero è che questo, diciamo, questa indignazione apparente, che può essere anche non apparente, in realtà scoppia come se si trattasse della rivoluzione che da un giorno all'altro deve avvenire, con questi social network nei quali tutti vanno ad esprimere, anche replicando il comportamento di altri, i pensieri di altri, questa indignazione, diciamo così. E appagando il proprio, come dire, senso di dovere alla partecipazione collettiva dell'indignazione. E il problema è che poi alla fine, fatto questo, scritte queste cose, in realtà nulla accade. Cioè lei dice c'è un senso del dovere, devo appartenere, devo partecipare, sì, perché questo è richiesto dalla coscienza. Questo, diciamo così, va a premiare, come dire, la propria coscienza, il proprio senso di appartenenza. In realtà apparteniamo a un mondo, arriviamo ad appartenere a un mondo virtuale che al di là del virtuale pare non esistere. Questa è la mia opinione. Grazie Mara, questa partecipazione che ci solleva la coscienza, cioè noi la nostra parte l'abbiamo fatta, sembra dire Mara, no? E poi finita lì, è stato facile, è stato bello. Laura Boella, professoressa Laura Boella, insegna filosofia morale. Buongiorno. Buongiorno. All'Università Statale di Milano. Questa è vera indignazione, questa che stiamo descrivendo oggi, di cui abbiamo milioni di esempi, non entro nemmeno nel citarvi tutti i post e tutti i commenti che si trovano a margine di articoli. Dunque, indignazione. L'indignazione è una virtù estremamente interessante e positiva. Poi qualche anno fa un intellettuale francese, Stéphane Hessel, di quasi 90 anni, ha invitato i giovani a indignarsi, un libro sì. che ha avuto moltissimo successo. Pensiamo ai movimenti, per esempio di Occupy Wall Street, così come degli indignados spagnoli, giovani, che ma anche a Hong Kong, no? Che passano, si riuniscono attraverso i social network, una specie di passaparola, e si pronunciano personalmente, direttamente contro la disuguaglianza. Ecco, l'indignazione è un'uscita dalla passività. In un mondo in cui c'è questo bombardamento di informazioni di cui parlava prima il direttore Masi, e quindi si alza molto la soglia della nostra ricettività, l'indignazione può essere un segnale molto positivo. È altrettanto vero che è un'emozione che come tale ha dei picchi e poi ha una discesa. Allora, secondo me la cosa su cui riflettere è che questo stato di agitazione emotiva, in fondo tutte le notizie insomma, molto drammatiche da cui siete partiti in trasmissione creano effettivamente uno stato di agitazione emotiva, di apprensione, di indignazione, di irritazione, insoddisfazione per le cose come stanno andando. Allora, com'è possibile che queste risposte, in fondo spontanee e in larga parte anche giustificate se pensiamo a tutto quello che non funziona in questo mondo, com'è possibile che questo si trasformi in politica? Perché il problema, secondo me, è che oggi c'è molta, o ci sono almeno gruppi, qualche volta anche partiti, che e poi forse un sistema dell'informazione che fa politica delle emozioni. Politica delle emozioni. Cioè, e questo secondo lei ha anche una valenza morale diversa dal coraggio vero? Voglio ricordare per esempio il titolo di un libro in cui lei riflette, no? Anche su queste cose. Si chiama Il coraggio dell'etica per una nuova immaginazione morale. Cioè sembra dire questo tipo di indignazione basata sull'emozione non richiede il coraggio dell'indignazione vera. Ecco, qual è il problema? Che essere diciamo stimolati emotivamente da un fatto drammatico, questa è una reazione automatica e spontanea che fortunatamente abbiamo tutti, a meno che diciamo non siamo totalmente freddi e insensibili. Ma questa reazione o risposta emotiva, per diventare significativa a livello sia etico ma anche politico, deve trasformarsi in qualcosa, per esempio in un tipo di azione, no? Di solidarietà, di mettersi insieme ad altre persone e agire. Ma c'è una retorica, il canone della televisione. Ma c'è una retorica, professoressa, in questa indignazione? C'è un po' l'indignazione che serve a dimostrare, no? Quella che inizia sempre col vergognatevi, per dire, no? Questo esatto. È un termine esortativo, allora, sfruttatissimo. E come l'ha già detto quella signora che è intervenuta prima, cioè purtroppo spesso ci basta la sensazione soggettiva di esserci indignati e ci accontentiamo e pensiamo che questo sia un elemento di partecipazione e di cittadinanza. Allora, sentiamone anche altri di opinioni, poi torno da lei, professoressa, perché i nostri ascoltatori stanno chiamando l'800 24 00 24. Renato, pronto? Pronto, buona giornata. Buona giornata, ci dica, lei è un indignato di questo tipo? Cioè lascia commenti, posta? No, guardi, siamo troppo abituati ormai alle brutte notizie e alle cose scandalose, per cui non ci si indigna sì al momento, ma poi tutto ritorna alla normalità, anche perché noi ci indigniamo e ci arrabbiamo fortemente quando l'indignazione riguarda, o perlomeno i fatti accaduti riguardano il nostro interesse personale, la mia famiglia, il mio patrimonio, Quanto riguarda l'interesse collettivo, vabbè, ci arrabbiamo magari, ci arrabbiamo anche in maniera forte, ma poi tutto ritorna come prima. Anche perché noi, a che cosa interessa a noi fondamentalmente? Io penso così, in genere, di come vedo io le cose. A noi interessa la nostra sicurezza personale. Finché non viene intaccata la nostra sicurezza personale, noi addirittura vendiamo la nostra libertà. Diceva anche Dostoevsky, là nel Grande Inquisitore, quando appunto dice cosa credete di fronte al dialogo con Gesù Cristo, dice cosa credete, che agli uomini interessi la libertà, no? Agli uomini interessa soprattutto la loro sicurezza personale. Poi noi viviamo in un mondo in cui prevale non l'atteggiamento di tristezza di fronte a questi eventi che capitano negativi. La tristezza in fondo è un sentimento nobile che presuppone riflessione, presuppone attenzione. E quindi questa tristezza ostentata secondo lei è un po' ipocrita, cioè un po' falsa? Non è una tristezza, è dire che è noia fondamentalmente. Cioè noia? Noi viviamo di più, non, sì, la noia. E la noia che cosa porta alla noia? Porta all'indifferenza, porta a certi scatti che sono anche violenti a volte, perché sì, quando siamo intaccati personalmente reagiamo in maniera molto violenta, ma poi tutto si ferma. Addirittura poi quando ci accorgiamo di aver reagito in maniera violenta, magari con calma riconosciamo anche di aver sbagliato quando abbiamo messo quel post. Senta Renato, anche lei insegna filosofia morale, cioè veramente? No, sono un sacerdote, scusi. È un sacerdote addirittura. Beh, insomma, con la moralità ha molto a che fare. La noia, lei ha notato, è dal suo osservatorio, chissà anche dal suo confessionale. Grazie per questa testimonianza di Don Renato, dunque dobbiamo dire. E un elemento in più, infatti c'è del cinismo, c'è della cattiveria, c'è del livore che spesso in questi post forse ha a che fare ed è acceso dall'insoddisfazione che alcune persone hanno con la propria esistenza. Per quello poi sono così pronte a scattare sulle scelte o sulle azioni di qualcun altro. Ma ne parleremo tra pochissimo anche con un nostro ospite psicoterapeuta che osserva i fenomeni e le emozioni anche a livello internazionale. Andiamo a controllare il traffico prima. Spunti di vista. I mille aspetti dell'attualità. Attenzione, 46 minuti dopo le 9, ancora buongiorno da Irene Zerbini. C'è chi ci parla della propria adesione alla causa di Charlie dopo la strage, ma poi ha cambiato idea perché... in realtà poi dopo essermi indignata, ci scrive Anna da Verona, ho letto quel giornale e non faceva ridere, voleva solo fare sensazione. Quindi ci spiega anche un po' questo ondeggiare a volte dell'indignazione. Stiamo parlando di questo, di questo telecomando dell'indignazione. Facciamo zapping, passiamo da una notizia all'altra, ci arrabbiamo tre giorni dopo per un'altra cosa ancora. Abbiamo scomodato uno psicoterapeuta, il dottor Aquilar. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno e buongiorno a tutti i nostri ascoltatori. Francesco Aquilar, perché lui si occupa di negoziazione internazionale come processo psicologico e sta scrivendo un libro tra i tanti che naturalmente hanno visto la sua firma sull'anonimato, proprio anonimo, è un libro sulla violenza verbale dei post sui social network. E ha sentito la testimonianza anche del sacerdote, parlava di noia, di rabbia verso la propria esistenza che ci porta a essere così rabbiosi verso gli altri. Lei che ne dice? Sono d'accordo con Don Renato, certamente anche la noia svolge una funzione importante, ma il problema è che l'indignazione come emozione etica o emozione morale spingerebbe all'azione, e alcune persone si sentono soddisfatte semplicemente dall'azione di pubblicare un'invettiva su un social. Da questo punto di vista aveva ragione la nostra ascoltatrice Mara da Modena, che il mondo virtuale a volte surroga troppo e male il mondo reale. E c'è una differenza dunque tra l'indignazione vera e lo scrivere basta, vergognatevi, fate schifo e tante altre parole che ora non sto a ripetere sotto una notizia che riporta qualcosa di anche di drammatico a volte, non sempre. Spesso quelle che collezionano i post più cattivi non riportano eventi drammatici ma riportano scelte e comportamenti. 800 24 00 24. Marco, buongiorno. Pronto? Eccomi. Pronto? Sì, ecco, lei ecco. Da che regione chiama? Chiamo dall'Emilia Romagna, da Rimini. Sì. volevo proporre una riflessione di questo tipo, un parallelo anzi, col mondo della musica. Quando c'erano i 45 giri si ascoltava un brano, poi sono arrivati gli album e allora la musica si è allargata e si ascoltavano 45 minuti insieme. Sì. Poi è arrivato internet e il massimo dell'ascolto di un brano oggi è di un minuto e mezzo, più o meno, circa. Non dura di più statisticamente, anche se le canzoni durano di più. Questo per dire semplicemente che cioè lei dice bisogno... scaricata, presa su Spotify, la canzone la ascoltiamo un minuto e mezzo e poi passiamo ad altro. Statisticamente, questo cosa vuol dire? Che lo stesso mezzo di comunicazione, vabbè, senza scomodare i filosofi della comunicazione, non può che influenzare la nostra vita, il modo in cui recepiamo le cose. Se viviamo oggi con un terminale sostanzialmente sempre acceso di fronte, questo condiziona la nostra vita perché ci rende schiavi della necessità di qualcosa di nuovo ogni momento. Ma lei lo fa, cioè questo fatto di ascoltare per un minuto e mezzo la musica, per postare un post cattivo, tanto c'è l'anonimato a proteggerla, questo tipo di comportamento che stiamo prendendo in esame? Sì. Lei? Ma io lo vedo. Lo vede o lo fa? A volte lo faccio anche, cerco di dominarmi. Mi rendo conto però che pur essendo di una generazione di quelli che si mettevano ad ascoltare le cose lunghe, quindi avendo ancora la pazienza e teoricamente essendo cresciuto in un certo modo, però scappa dalle dita, lei dice. Beh sì, anch'io alla fine sono voglia di vedere sempre qualcosa di nuovo, qualcosa che poi che si consuma continuamente, anche perché ho milioni di cose a disposizione. Grazie, quindi... grazie Marco, è stato anche non solo molto franco, molto intelligente a farci questo parallelo con la musica. Francesco Aquilar, è dunque un po' una malattia di questo tempo, la nostra attenzione ormai non può reggere più di tanto. Lei si trova d'accordo? Certamente, perché è un problema di saturazione psicologica. Noi riceviamo moltissime informazioni ogni giorno e da queste informazioni dobbiamo selezionare quelle che ci aiutano a vivere. Inoltre noi siamo attrezzati biologicamente per sopportare i guai del nostro quartiere, non dell'intero pianeta. Per cui inevitabilmente si riduce il tempo di attenzione a ciascun elemento e si passa immediatamente a qualcos'altro. Inoltre l'indignazione ha due aspetti, un aspetto individuale che è quello che riguarda l'indignazione per le cose che capitano nella nostra famiglia, nel nostro vicinato, e l'indignazione sociale. Mentre nel vicinato possiamo realmente fare qualcosa per modificarlo, sul piano internazionale e sul piano delle notizie socialmente rilevanti, quello che possiamo fare è pochissimo e le richieste sono moltissime. Ecco perché si fa un gran clamore e poi magari alla celebrazione per José Charlie arrivano solo 200 persone. Ma c'è quindi una esistenza che possiamo dire viene consumata, vissuta su due piani, cioè magari siamo cattivissimi via computer, facciamo questi commenti al vetriolo e poi siamo i primi, perché il popolo italiano tra l'altro ha un primato anche in questo senso, è bene sottolinearlo, a svolgere del volontariato, a renderci utili alla collettività. Certamente, è proprio quello il doppio livello che dicevamo, dal punto di vista della vita privata, l'indignazione nel privato porta a far qualcosa, per esempio porta gli italiani ad essere tra i popoli che fanno più volontariato del mondo occidentale, mentre invece l'indignazione sociale, che richiederebbe un'azione più complessa, più lunga e più coordinata con altre persone, è più difficile e in qualche modo alcune persone è come se soddisfacessero il loro bisogno di far qualcosa attraverso queste proteste, che in realtà poi sono inutili e in qualche modo ricadono sulla stessa persona che le ha fatte, senza un risultato positivo. Ma c'è anche molta rabbia però in questi post, quasi che alzando il livello di rabbia si cerchi di essere, come dire, ascoltati. Ce lo segnala anche Piero, che scrive un sms e dice: provoca rabbia, c'è molta provocazione, questa provoca rabbia tra i giusti e gli onesti. Ecco, quando ci si mette davanti al computer lì ci si sente sempre dalla parte dei giusti e degli onesti, no? In qualche modo. Certo, certo, e questo è un altro fattore che, come diceva Mara da Modena, fa notare la differenza tra mondo reale e mondo virtuale. La rabbia è molto spesso nient'altro che l'espressione disfunzionale dell'impotenza. il senso di impotenza. Se io posso fare qualcosa, è inutile che mi arrabbio, intervengo e risolvo il problema. Se io invece sono impotente a intervenire, naturalmente è molto più probabile che questa rabbia resti da sola, come dire, nell'area, e l'unica cosa che io posso avere la sensazione di fare per influenzare il mondo è esprimere lo sdegno con un'invettiva. Se sono Dante Alighieri e faccio un'invettiva, può darsi che questa invettiva passi alla funzioni. Storia, certo. Ma se non lo sono, ecco, se sono Alberto Bevilacqua e scrivo un libro di poesie bellissimo ancora oggi che si chiama L'Indignazione, va benissimo, ma se non ho queste capacità letterarie, la rabbia ricade su me stesso e mi affossa ancora di più e qualche volta si trasforma addirittura in depressione. E questo infatti ci è segnalato anche da un nostro ascoltatore che non si firma. Laura Boella, concludo con lei, è dunque neutro questo fatto di indignarsi, di inneggiare alla rivoluzione con un nickname, come ci scrivono, di sfogare la rabbia per una vita banale, mal giocata e atona, non ha effetti poi su chi lo fa o ha anche delle conseguenze? Ah, non è tanto neutro nel senso che partigiano molto spesso, no? Cioè è un elemento appunto di contrapposizione, spesso insomma anche parrocchiale, no? Noi siamo i buoni, poi sono gli altri invece evasori che si devono vergognare. Io penso che insomma, in questo mondo così complesso forse bisogna un po' allargare anche lo sguardo e pensare che allora va bene rabbia, va bene espressione, diciamo coinvolgimento personale, ammettiamo che sono forme insomma per uscire dalla passività, però forse allora guardiamo ad altre possibilità di emozionarci e poi anche di impegnarci eticamente. E per questo secondo me il coraggio può diventare un appello molto forse più chiaro e più netto e forse anche più costoso alle persone, meno facile, che sentono che qualcosa non funziona. Grazie, grazie a Laura Boella, docente di filosofia morale all'Università Statale di Milano, a Francesco Aquilar e ai nostri ospiti, a tutti voi che avete partecipato, ma soprattutto in redazione a chi ha creato questa trasmissione di oggi: Massimiliano Lollis e dunque Barbara Bianchi, Silvi Boccaletti, tutti quelli che lavorano a Spunti di Vista dalla mattina alla sera, poi a Peter Bescape che in regia sempre ci permette di andare in onda. Da Irene Zerbini un saluto. Prima di salutarci vi propongo questa riflessione, viene da un sito, Docenti Senza Frontiere, sentite. C'è una tribù africana che ha un costume molto bello. Quando qualcuno fa qualcosa di sbagliato e nocivo, mettono la persona al centro del villaggio. Arriva tutta la tribù e lo circonda. Per 2 giorni dicono all'uomo tutte le cose buone che ha fatto. La tribù crede che ogni essere umano viene al mondo come un bene. Ognuno è desideroso di amore, pace, sicurezza, felicità. Ma a volte nel perseguimento di queste cose commettiamo degli errori. La comunità vede quegli errori come un grido di aiuto. Essi dunque si uniscono per sollevarlo e per ricollegarlo con la sua vera natura, per ricordargli fino a quando non si ricorda pienamente la verità dalla quale era stato temporaneamente disconnesso. Nabayoti Saikia è un complimento utilizzato in Sudafrica e significa io ti rispetto, ti nutro, mi importa. In risposta dicono Midori, che significa così, esisto per te.